Quartiere ebraico. C'è un fenomeno curioso che si può osservare recandosi in via Carbonara. Dopo il tramonto, sbirciando attraverso la finestra posizionata sopra l'ingresso del Civico 5, si può vedere comparire una strana nube densa che cambia lentamente forma e colore. Per giustificare la suggestiva apparizione, che non ha ancora una spiegazione scientifica, alcuni si sono spinti a ipotizzare che si tratti niente meno che del fantasma della principessa Aposa, il cui omonimo torrente scorre sotterraneo nelle vicinanze. Ci troviamo nei pressi dell'ex ghetto ebraico, a pochi passi dal celebre Palazzo Bocchi, che sorge al Civico 16 di Via Goito. Il palazzo, progettato dal Vignola e completato negli interni da Ottaviano Mascherino, l'architetto del Quirinale, conserva affreschi cinquecenteschi di Prospero Fontana. L'edificio apparteneva all'umanista bolognese Achille Bocchi, docente di lettere greche all'Università di Bologna dal 1508 al 1536. Bocchi era così stimato nell'ambiente accademico che al momento del pensionamento gli fu chiesto formalmente di continuare a insegnare privatamente e gli venne affidato l'incarico di scrivere Una Historia Bononiensis. Nacque così l'Accademia Ermatena, della quale Palazzo Bocchi fu la sede. Il nome Ermatena nacque dalla fusione dei nomi delle divinità greche Hermes e Atena e allude alla conoscenza umana nella sua duplice natura, razionale ed ermetica. L'edificio è conosciuto per una singolare caratteristica. Al di sopra dello zoccolo imbugnato del basamento, Bocchi fece incidere due frasi, una in latino e una in ebraico. La frase in latino recita «Sarai re, dicono, se agirai rettamente», ed è una citazione del poeta Orazio tratta dalla prima epistola, mentre nell'iscrizione in ebraico, tratta dal Salmo 120, si legge «Signore, liberami dalle labbra menzogniere e dalla lingua ingannatrice». Il significato delle iscrizioni è tuttora oggetto di dibattito, ma si riferisce probabilmente ai principi di libero conforto e scambio culturale degli intellettuali che frequentarono l'Accademia. E forse le labbra menzogniere alludono alle calunnie nei confronti della popolazione ebraica, dato che nella seconda metà del Cinquecento a Bologna, come nel resto dello Stato Pontificio, si assisté a un inasprimento delle persecuzioni nei loro confronti. Risale infatti al 1566 la costruzione del Serraglio degli Ebrei, in seguito chiamato semplicemente ghetto, voluta da Papa Paolo IV con l'emanazione della bolla Cum Nimis Absurdum. Costui era un vero fanatico. Formatosi all'ombra dei principi dell'Inquisizione spagnola, chiamava a raccolta i fedeli per bruciare i libri in ebraico, definendoli anticristiani. Fino ad allora risulta che la comunità ebraica fosse ben integrata in città, al punto che nel 1488 all'università era stata istituita una cattedra di storia dell'ebraismo. Oltre all'attività bancaria, i mestieri che praticavano erano variegati. C'erano pittori, musici, osti, stracciaioli, medici, filosofi, filatori della seta, tipografi. Si deve a un ebreo, Abramo Caravita, il primo libro stampato a Bologna secondo la tecnica a caratteri mobili ideata da Gutenberg. Si tratta del Pentateuco, la raccolta dei primi cinque testi della Bibbia. In seguito all'emanazione della bolla di Papa Paolo IV, in tutti i territori dello Stato Pontificio, di cui Bologna faceva parte, la vita degli ebrei fu soggetta a una serie di restrizioni. Oltre a dover vivere separati dal resto della popolazione, gli unici mestieri loro concessi erano il commercio di abiti usati o roba vecchia e la possibilità di tenere un banco di prestito. Inoltre, erano costretti a indossare qualcosa che li distinguesse, che nel caso degli uomini era un cappello giallo, in seguito rosso, e per le donne un velo dello stesso colore, esattamente come le prostitute. A delimitare il ghetto erano le attuali via Zamboni, via Oberdan e via Marsala. L'accesso era regolato da tre cancelli che venivano chiusi al tramonto. Di questi, solo uno è ancora visibile. Si tratta del voltone di Palazzo Manzoli Malvasia, all'incrocio tra via del Carro e via Zamboni, mentre gli altri sono stati assorbiti dall'evoluzione del tessuto urbanistico. Alzando lo sguardo sull'arcata, è ben visibile un mascherone antropomorfo in arenaria inserito sulla volta, che fa da base al balcone del palazzo. L'arco è conosciuto anche come la Fontana del Vino. Il motivo? Pare che nel Settecento i proprietari dello stabile avessero l'abitudine di festeggiare eventi importanti come un matrimonio, una nascita o la nomina a una carica di un membro della famiglia, facendo scorrere attraverso la bocca del mascherone un getto continuo di vino, a cui si potevano abbeverare anche i popolani. Un modo che oggi definiremmo senza dubbio eccentrico per condividere la gioia, che però all'epoca doveva apparire tutto sommato normale. Via del Carro si immette sulla suggestiva Via dell'Inferno, la direttrice principale del ghetto. L'origine di un nome tanto altisonante è controversa, ma c'è chi sostiene che sia stata chiamata così perché pare che in quel tratto il torrente Aposa rallentasse il suo corso. Siccome dentro le sue acque veniva gettato proprio di tutto, si dice che il tanfo fosse infernale. In Via dell'Inferno era presente la sinagoga, demolita dopo la definitiva cacciata degli ebrei dalla città avvenuta nel 1593. Ci vollero almeno 2 secoli perché un'altra comunità di ebrei si stabilisse a Bologna. La sinagoga, ricostruita ai primi del Novecento con pregiati interni in stile Liberty, è stata abbattuta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Risale al 1593 anche la distruzione del cimitero ebraico, che era ubicato nell'attuale via Orfeo, tra la chiesa del Baraccano e quella di San Pietro Martire. Ciò che rimane delle antiche sepolture è oggi conservato al Museo Civico Medievale. Si tratta di 4 lapidi, una delle quali, quella di Shabbatai e il Canan d'Arieti, è di eccezionale valore artistico. Si tratta infatti di uno dei rari esempi in cui si è trasgredito il divieto di scolpire immagini imposto dalla religione ebraica. Una leggenda metropolitana vuole che tra le cantine del ghetto esistesse una rete di tunnel che permetteva di uscire, con uno sbocco nella zona delle 2 torri. Tuttavia, non è mai stato trovato. Così come non è mai stato trovato il tesoro che si racconta fosse sepolto nella Casa Grande dell'Ebreo, nella collina di Oliveto di Monteveglio. Un edificio costruito nel 1410 e che si dice sia stato la prima banca della zona. Alzando lo sguardo in vicolo San Giobbe, si può notare che i palazzi sono collegati tra loro da passerelle. È probabile che servissero a permettere un'agevole fuga da eventuali inseguitori o dalle ronde nei periodi in cui le persecuzioni si facevano più accese. Per lo stesso motivo, alcune case hanno degli ingressi falsi, per confondere gli inseguitori. I veri portoni erano posti in posizioni defilate, e venivano spesso coperti con botti o piante. L'enigma di